in cuffia poco poco, il sottofondo va benissimo perché ci rendi allegri. C'è un ritorno, un reverbero, ecco, adesso la regia penserà perfetto, a posto. Le casce, sì, le casce, sì, sì, ma è bello questo passare dall'italiano al vernacolo, le casce, sì, sì, è qualcosa di spettacolare. E poi fuori onda ti racconterò un aneddoto che è successa una cosa molto bella. Allora, stiamo parlando invece del bassista. Sì. Spieghiamo a non addetti ai lavori, chi ci ascolta, i nostri radioascoltatori, che magari sono avvezzi alla musica, hanno seguito i nomi, ne seguiranno anche voi, spero che sia, perché insomma ne vale la pena, siete molto bravi. Per quello che io ne possa capire, non sono un musicista, però insomma. Sei un grande intenditore. Voglio dire, adesso non esageriamo. Sono un buon gustaio, mi piacciono i prodotti di nicchia, e voi presumo siate un prodotto di nicchia. Ce l'hanno detto molte volte. Senti, quando sono i natali del vostro gruppo, come vi siete conosciuti, come avete iniziato, e poi l'approccio appunto con un pezzo grosso, insomma, i nomi sono 50 anni di storia, sì. Non si scherza. Siamo nati nel 2007, l'idea era quella di divertirci, perché uscivamo da formazioni molto più, come dire, impegnate nell'ascesa, tra virgolette, no? Sì. E allora abbiamo deciso di divertirci un pochino. Quindi, cover, spettacoli. Come sempre succede, sì. Si inizia tutto per scherzo. Cover, spettacoli un po' in giro, tanto spensieratezza, insomma. E poi comunque abbiamo cominciato a scrivere dei brani inediti. Quando poi abbiamo scritto Realtà Distorta, che fu un singolo che andò in giro per la Sicilia con Mediterranea Sat, quindi siamo stati in tour con Teleoccidente, sì. Presentava il conduttore di Radio Time, l'avvocato, non ti vengo, questo è grave, questo è grave. No, vabbè, bello comunque. San Filippo, grande, ti voglio bene. Perfetto. Esatto, ok. Realtà Distorta fu, diciamo, il trampolino di lancio per appunto farci conoscere i Nomadi, perché grazie a dei contatti, sappiamo che i Nomadi sono molto, come dire, arrivano capillarmente ovunque, e quindi conoscono un sacco di gente, si fanno tanti amici, e tramite qualche amico siamo arrivati a lui, a Massimo Vecchi, appunto, che ci disse: ragazzi, vi ascolto, vedo che c'è qualcosa che mi piace, dice, anche perché, scusa, ti interrompo, i Nomadi, tu sai che nascono come pop rock, quindi voglio dire, è sulla vostra falsa riga, anche se un rock meno duro rispetto a quello che sentivo poco fa nel primo brano, però sempre rock, insomma, hanno fatto. Senti, le altre esperienze, poi arriviamo un'altra volta ai Nomadi, perché tra poco avremo in diretta il vostro produttore, il bassista, la seconda voce dei Nomadi, esatto. E una storia meravigliosa, dicevo, soprattutto con un grande personaggio che è stato carismatico all'interno di questo gruppo, che è Dall'Olio. Purtroppo è scomparso. Dall'Olio, senti me, deformazione proprio, no, bisogna pronunciare bene i cognomi. E una voce particolare, una bella voce, ma soprattutto bellissime canzoni che poi nucleeremo nell'ambito nel proseguo della trasmissione. Dicevi quindi le altre esperienze che tu voi avete fatto da quel momento. Da quel momento poi praticamente abbiamo cominciato a delegarci alla pre-produzione di tutta una serie di brani, e quindi poi all'interno di tutto questo lavoro abbiamo conosciuto per esempio il bassista di Edoardo Bennato, che quindi ci ha dato la sua manina, perché è anche un percussionista, Patrick Duenas, e quindi ha inciso con noi per esempio un brano. C'è un fantasma che mi recita all'orecchio, che i nostri studi, presumo non siano stati questi, non so se sono questi, ma quelli che c'erano prima, sono stati visitati dai Nomadi, sono stati qui da noi, sono stati intervistati. Davvero? Chissà che nel proseguo noi non si possa tornare un po' indietro e avere l'opportunità di avere i Nomadi, questo 50 anni, questo mezzo secolo di storia, di musica leggera, di rock, di pop italiano. E quindi tantissimi appuntamenti, queste piccole chicche, che fanno. Sì, il sassofonista di Baccini e Grignani, che è Luca Volontè, che è stato in tour con noi quest'estate, Gabriele Lorenzi della Formula 3, che quindi ci ha dato la sua piena disponibilità per venire in tour con noi quest'estate, anche Massimo, per esempio, possiamo portarlo in tour con noi perché ci ha dato la sua disponibilità. Quindi Massimo comunque è stato, come dire, un padre musicale per noi, un fratello, a parte che è un grandissimo produttore artistico, perché insomma è un personaggio in gamba, un musicista in gamba, e grazie a lui siamo riusciti a inserirci un pochettino nel circuito milanese. E adesso siamo in uscita con il nostro album, che, se tutto va bene, dovrebbe uscire a fine febbraio. Carpe Diem. Che l'album si chiama Carpe Diem. Porta il singolo, nome stesso del singolo. Esattamente. Sì, Carpe Diem. Anzi, è preordinabile l'album, dal 21. Ordiniamolo, è un imperativo, che bisogna ordinare questo. Sì, ma sul sito www.nuovasantelle.com, va bene. Allora, qualcuno ogni tanto, ma sai, sono gruppi siciliani, ma dove vuoi che vadano? Non è così. Noi in Sicilia abbiamo, a parte la provincia di Catania, che Catania è molto forbita dal punto di vista artistico, musicale, abbiamo grandi personaggi, addirittura uno di questi adesso è assessore anche alla regione siciliana, ed è un grande compositore, un grande musicista, un grande cantante. Ma se uno si mette veramente a girare casa per casa o paese per paese, scopre che ci sono tantissimi talenti che non possono essere messi in vetrina perché non abbiamo i mezzi, in Sicilia non abbiamo. Voi dove registrate? Noi abbiamo registrato a Milano. Abbiamo registrato a Milano negli studi di Massimo Vecchio, quelli personali. Lui ha un'altra formazione che si chiamano Mano Loca, quindi Mano Loca Studios. E quindi abbiamo registrato tutto l'album là e poi abbiamo fatto là il mastering a Forlì. Quindi insomma il prodotto è salito qualitativamente. Dobbiamo spiegare ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici cos'è il produttore artistico, perché spesso lo si confonde col manager, colui quale vi procura le serate, vi fa fare i passaggi televisivi, i passaggi radiofonici, eccetera, no? La promozione vera e propria del CD prima e del gruppo poi. Il produttore artistico si impegna e si occupa solo ed esclusivamente di quello che è la gestione tecnica della registrazione dell'album, e poi ti indirizza appunto artisticamente verso la direzione giusta. Anche può dare dei consigli a livello, come dire, pubblicitario, cioè, sicuramente il produttore artistico comunque comprende un po' tutto, ma non si occupa della produzione discografica. Quindi quella è la casa discografica, che saluto. Vanno alcuni diritti, altri vanno al produttore artistico, di altra distribuzione. Esattamente. E funziona così. Esattamente. Senti, in un momento in Italia dove c'è questo, io lo chiamo decurtamento, depauperamento della fase economica depressiva, no? Sì. E quindi non c'è da stare molto allegri. Il mondo musicale, ahimè, come il cinema, come il teatro, subisce dei contraccolpi. Questo non vi ha fatto paura, no? Ma io mi viene da ridere, perché l'occasione della nostra vita, questa qui, ci è successa appunto proprio nel momento di crisi più assoluta, più mondiale, tetra, più nera. Sì, siamo arrivati a Milano e quindi hanno annunciato, già c'era comunque il sentore, hanno annunciato la super crisi mondiale. E, insomma, abbiamo avuto un pochettino di paura. Sì, ci fa paura, ma ringraziando a Dio facciamo musica per fare musica e non creiamo sicuramente il prodotto per venderlo e basta. Ecco, c'è il video il vostro video, no, Lagram? Mentre vediamo il video in diretta televisiva, sarebbe opportuno, giusto, da parte mia, soprattutto visto che siete ospiti miei, di ringraziare, salutare e fare i nomi degli altri componenti del tuo gruppo. Benissimo, il gruppo, insomma, nella registrazione del disco ci siamo trovati con Francesco Pantano al basso, Domenico Inguaggiato alla batteria, Max Pirone. Domenico Inguaggiato. Alla batteria. Inguaggiato, mi dice qualcosa sto ragazzo? Sì, no, diciamo che non sono titolare di cinema, non è lui, sono omonimi. Sì, esattamente. E Max Piro alle chitarre. Adesso in formazione il chitarrista comunque si è staccato, si è dedicato al progetto a livello appunto discografico. Dopodiché si è staccato, insomma, abbiamo altri amici chitarristi. C'è una domanda che mi preme farvi. Voi siete tutti e quattro, cinque siciliani. Avete sempre vissuto qui da noi, giù nella nostra terra. Sì. Però di solito ci sono delle disincresie, cioè i musicisti che vengono dal sud portano dentro quell'anima tipo Napoli, quell'anima più allegra, più ventosa, no? Ma l'impatto con i musicisti di più spessore, di più esperienza, cosa vi dà in più? Cos'è che vi fa assimilare in più? Cos'è che cambia nella musica poi in questo miscuglio tra nord e sud? Beh, sicuramente l'approccio cambia radicalmente, anche perché incontrare personaggi di un certo spessore, anche se sono del nord, sicuramente è un motivo di crescita. Poi tutta questa differenza tra noi e un musicista del nord non l'ho trovata, a parte che ci sentiamo dire sempre più spesso da sta gente, insomma, dice: oh, ma si sente, c'è il calore, c'è, penso che qualcosa il nostro sangue la trasmetta. Specialmente quello arabo. Specialmente Mirko, è piacevolissimo. Sei un ragazzo molto dinamico, pimpante. Questa sua estrosità, questo suo modo di essere, lo estrinseca nei brani che poi avete sentito, almeno il primo brano. Prima di passare al secondo brano, vediamo se in regia sono pronti per la seconda traccia. Intanto il titolo del secondo brano. Il secondo brano praticamente si intitola Il mondo delle streghe. Ed è una riflessione, dico, lo voglio dire, un po' politica. Ah, giusto, siamo in tema. Ho dato un'occhiata un po' a quello che è stata la nostra terra e ho cercato di esprimere quello che... Allora, prima di partire col secondo brano, quindi da quanti anni state insieme ormai con... Beh, sono 5 anni. Tosti. Poi provate tutte le sere, no, vi ritrovate. Tutte le sere magari no, perché comunque siamo stati 1 anno e mezzo a Milano, lì provavamo tutte le sere. Adesso abbiamo un po' allentato, ci stiamo occupando più della pubblicità. Sentite, c'è un gruppo, a parte i Nomadi, che è uno dei molti o pochi gruppi rock e pop italiani. C'era qualche altro gruppo che voi avevate in mente, che seguivate dentro di voi, su cui vi ispiravate per il vostro impegno musicale? Beh, tecnicamente no, più che altro siamo gente molto diversa, perché ascoltiamo generi di musica totalmente diversi. Io vado dall'americano, hard rock americano, a Celentano, che lo adoro da morire. Ma chi non adora Celentano? Insomma, quindi un miscuglio. Allora, in attesa di continuare la trasmissione, poi chiameremo insieme l'amico Massimo Vecchi. Io direi alla regia di partire col secondo brano che ha appena annunciato Mirko. Lo ripetiamo, il titolo del secondo brano: Il mondo delle streghe. Il mondo delle streghe. Allora, la regia dovrebbe mandare in onda già questo brano, in attesa che siamo in diretta, quindi in attesa che parti il brano facciamo qualche altra piccola domandina semplice. Ma voi avete ancora intenzione di vivere in Sicilia o di trasferirvi al nord? Bella domanda. Ecco il brano. Città perduta della terra amata, dalle ninfe dell'acqua e dagli dei dell'aria, si respira il ghiaccio quando è pomeriggio, un giorno di maggio, la nebbia è un corpo gelido. Il fiato sul collo e c'è la pelle in ballo e vedi il segugio venire verso te. Riesci a malapena a scegliere il sistema per liquidarlo, ma vivi nel mondo dei sogni e delle favole, mentre respiri qualcuno ha già scelto per te. Governi il mondo delle fate, ma chi comanda qui sono le streghe. Vivi nel mondo dei sogni e delle favole, mentre respiri qualcuno ha già scelto per te. Governi il mondo delle fate, la pelle in ballo ma tu non sai di un tempo giganti ed ora mostri riluttanti. Resti per dare un senso a tutto ciò che ha senso, prima che il tempo distrugga quel che c'è. Vivi nel mondo dei sogni e delle favole, mentre respiri qualcuno ha già scelto per te. Governi il mondo delle fate, ma chi comanda qui sono le streghe. Vivi nel mondo dei sogni e delle favole, mentre respiri qualcuno ha già scelto per te. Governi il mondo delle fate, la pelle in ballo ma tu non sai distinguere. Governi Pubblicità. Easy Chic, per un inverno caldo. A Castelbuono, Easy Chic, di Spallino Nunzio. Vendita e assistenza di stufe a pellet Nordica e Lincan, con forniture di pellet Faggio e Abete Rosso, stufe e liquido Zibro. Inoltre, offerte eccezionali per lampadari di qualità, con sconti fino al 40%. Easy Chic, di Nunzio Spallino. Via Fonte di Camar, già via Geraci, a Castelbuono. Telefono 0921 67 18 18. Easy Chic, per caldi momenti. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Peugeot Cefalù con AICA. AICA, concessionaria Fiat, Lancia, Fiat Professional e Peugeot. La trovi in via Roma 91-93 a Cefalù. Vieni a visionare il nostro showroom Peugeot e scoprirne la nuovissima gamma, tra cui la bellissima 3008 o lo sportivissimo coupé RCZ. Potrai richiedere un preventivo gratuito. Inoltre, se possiedi una vettura da rottamare, tra le nostre numerose offerte potresti trovare quella giusta per te. Ti aspettiamo in via Roma 91-93 a Cefalù, telefono 0921 42 11 55 o visita il nostro sito www.aicasrl.it. Il mito diventa realtà. Remida a Cefalù trasforma il vostro oro e argento in denaro contante. Veniteci a trovare per una valutazione gratuita. Rimarrete sorpresi del valore che solo Remida riesce a dare ai vostri oggetti. Remida a Cefalù è in via San Pasquale 20. Vi accoglieremo con serietà e trasparenza, garantendo per il vostro oro e argento la massima quotazione di mercato, certi di lasciarvi soddisfatti. Remida a Cefalù in via San Pasquale 20, per realizzare i vostri sogni nel cassetto. E allora, si scherzava dietro, abbassiamo la musica in cuffia, grazie. Dunque, si scherzava un po' qui nei nostri salotti, come potete vedere dalla nostra televisione. Vi ricordo il sito www.crmpradio.it. Allora, abbiamo parlato di questo gruppo, ne parleremo ancora perché c'è tanto, tanto, tanto da dire. Gruppo sicuramente tosto, rockettaro, rockettaro, quindi voglio dire. Poi spieghiamo cos'è il rock, cos'è il pop, cos'è il blues, cos'è il soul, perché molta gente sente parlare delle tipologie diverse di musica, però poi non capisce l'etimologia della parola. Mi spiego meglio. Dici, io sono stato in America, ho ascoltato un bel gruppo soul. Chiesto, il sole che nasce, il sole che crepa. Oh, invece poi spiegheremo tutto quanto alla gente, quali sono le differenze tra una e l'altra musica. Intanto diamo il ben arrivato, il grazie per aver accettato l'invito nella nostra trasmissione a uno dei più grandi gruppi che abbiamo avuto in Italia, che abbiamo in Italia 50 anni di storia. Lui, signori e signori, è Massimo Vecchi, a cui diamo il benvenuto. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E senti, in sottofondo intanto la regia manda in onda un brano storico vostro. Io un giorno crescerò. Io vagabondo. Sì, sì, sì, sì. Allora abbassiamo la musica, la mandiamo sempre in sottofondo, poi in onore dei grandi. Voi siete dei grandi, 50 anni, grazie. Siamo cresciuti molti con voi, molto con voi. Io ho tantissimi bei ricordi. Ancora abbassiamo ancora la musica in cuffia, grazie, se non sento. Massimo, io ti do del tu nel mondo artistico. Certo, insomma. Figurati, ci mancherebbe. Allora, intanto a nome di tutti i siciliani ti dico grazie, perché hai avuto il coraggio, devo dire, e ben riposto di produrre questo gruppo che è siciliano. Grazie io di questo. Io vi ringrazio, per me è stato un piacere, perché io ho conosciuto i ragazzi qualche tempo fa, mi sono trovato benissimo con Mirko e con tutti. Ho notato che nella loro produzione c'erano delle cose particolarmente originali, cioè io, guarda, sinceramente, se ci devo mettere la faccia ce la metto se qualcosa mi convince sinceramente. Bravo. Per cui loro mi sembravano veramente gente che abbia voglia di fare musica in maniera genuina e un po' come posso dirti, un po' la filosofia nostra dei nomadi. Secondo me le condizioni c'erano e abbiamo realizzato questo. Allora Massimo, parliamo, scusami, volevi dire, prego. Volevi aggiungere qualcosa? Abbiamo realizzato appunto insieme questo cofanetto con la mia produzione, con la supervisione di Beppe Carretti, per cui allora, abbiamo costruito secondo me un album molto interessante. Molto bello, noi abbiamo già ascoltato due brani, sono straordinari, c'è molto rock dentro, ma l'arrangiamento è straordinario. Io ho ascoltato, mi è andato orecchio il basso. Complimenti ai ragazzi perché ci hanno messo veramente. Dico, a parte il complimento ai giovani, sai, in Sicilia non abbiamo molte chance da poterci giocare, soprattutto sotto il profilo musicale. Non esistono scuole, non ci sono case discografiche, se c'è, insomma, sono etichette molto piccole. Ci sono tantissimi artisti di un grandissimo livello. Bravo Massimo. Allora, senti una cosa, parliamo per pochi minuti invece, io darei ore ai Nomadi, perché quando sento la canzone Io Vagabondo, Un Pugno di Sabbia, mi viene la pelle d'oca, perché sono brani straordinariamente belli, orecchiabili, straordinari. Ma siete straordinari voi. Allora, l'anno di formazione è il 63, con un tastierista straordinario che è Beppe Carletti, con Augusto Daolio. Dico bene? Esatto. Allora, sono 50 anni di storia, brani famosissimi. Io Vagabondo nel 92, Io Voglio Vivere nel 2004, Un Pugno di Sabbia del 1994, Crescerai del 1992, Canzone per un'amica del 1992, Dio è morto, un'altra canzone favolosa, meravigliosa, e tantissimi altri brani, insomma, che collaborazioni meravigliose, poi tra l'altro con cantautori straordinari, che hanno portato alla luce brani straordinariamente favolosi e famosi in tutto il mondo, perché voi avete anche girato e sappiamo cosa ha portato dentro ad ognuno di noi la musica dei Nomadi. Senti, la scomparsa di Daolio, che era insomma la voce dei Nomadi, almeno nella prima formazione fino a qualche anno fa, la scomparsa di Daolio cosa vi ha lasciato, e invece la presenza fisica di Daolio cosa vi dava durante i vostri allora, concerti? Guarda, devo bloccarti un attimo, perché io purtroppo la presenza fisica non ho avuto il piacere. Ah, sei entrato di dopo, sì, condividere, perché sono entrato nei Nomadi nel 1998 e purtroppo Augusto ci ha lasciato. Non c'era più. Io ho avuto l'occasione, quando ero molto molto giovane, di conoscere Augusto, perché comunque lui faceva vari seminari nelle scuole di musica della zona di Reggio Emilia, sostanzialmente. E ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente in quelle occasioni. Dopodiché, voglio dire, ci ha lasciato un'eredità artistica, e non solo musicale, a livello di scultura, a livello di quadri. Cioè, Augusto era, e io ne posso parlare purtroppo, come ti dicevo prima, per cose riportate, ho la fortuna di lavorare assieme a gente che ha avuto la fortuna di lavorare insieme a lui. Sì, era un carismatico comunque. Com'è? Era carismatico come persona. Sì, beh, il carisma chiaramente non gli mancava, ma non gli mancava proprio ogni forma d'arte, nel senso che è stato un artista a 360 gradi completamente, ha lasciato dei segni indelebili proprio nell'arte italiana. Senti Massimo, voi avete partecipato come gruppo al Festival di Sanremo del 2006, da quel momento mi pare non ci sono state altre partecipazioni al Festival di Sanremo. No, abbiamo fatto un paio di comparsate. Una volta accompagnando Irene Fornaciari e un'altra volta una grandissima. Ma non in concorrenza, cioè non avete partecipato come concorrenti? No, come concorrenti no. È stata una vostra scelta, è stata una politica vostra o è stato un momento di stacco dalla musica? No, diciamo con la politica nostra, nel senso che noi abbiamo la presunzione di pensare di non essere il, tra virgolette, solito gruppo di massa o comunque di business. Volevamo utilizzare praticamente la vetrina di Sanremo nel momento in cui avevamo veramente una canzone forte, un qualcosa, un messaggio forte da mandare. Ci siamo sempre detti che eravamo noi, in una qualche misura, che dovevamo, al di là della gara, al di là di tutto il music business che c'è attorno, ma dovevamo essere noi a sfruttare Sanremo e non saremo a sfruttare noi. E penso che comunque in una qualche misura ci siamo riusciti. Senti, per l'estate a venire, noi qui in Sicilia abbiamo sete di vedere gruppi di nicchia, quale voi siete, per cui ci farebbe veramente piacere. C'è la possibilità quest'estate che voi possiate fare un tour in Sicilia? Sì, è facilissimo. Purtroppo abbiamo fatto proprio una toccata e fuga il primo di maggio, quest'anno, l'anno scorso nel 2012 in provincia di Agrigento. Ma quest'anno secondo me avremo la possibilità di fare qualche data sicuramente anche giù per gli amici della Sicilia, visto che abbiamo veramente un grandissimo seguito giù in Sicilia. Ci dispiace un po' per l'estate scorsa, perché per una serie di circostanze, poi anche relativa appunto alla crisi economica che attanaglia pure il paese. Ne parlavamo prima anche con Mirko di questo problema. C'è stato, noi diciamo che tutti gli anni abbiamo sempre fatto almeno 5-6 date nel periodo estivo. Scusami Mirko, ma tu sei emiliano romagnolo? Massimo, sei... Io sono di Reggio Emilia, ma non si sente per niente, cioè. No, io è intrinseco dentro di me, io cerco di fare dei corsi. No, non è importante, perché comunque l'inflessione dialettale vostra è straordinariamente dolce all'orecchio. Forse sì, quella siciliana può essere un po' più dura, ma io amo i dialetti italiani, perché nella loro eterogeneità sono portatori comunque di grande cultura, quindi voglio dire. Grazie, no, ma figurati Massimo. Una domanda prima di farti un'altra, due andiamo a chiudere perché il tempo purtroppo stringe, e vorrei ascoltare anche un brano vostro. Io amo moltissimo Un pugno di sabbia, amo Dio è morto, ma poi il brano per eccellenza, per antonomasia, Io vagabondo, che insomma mi trasmette veramente, mi fa piangere. È un brano straordinario. Senti, in produzione invece per l'immediato futuro, cosa state preparando? Guarda, adesso quest'anno scattano praticamente i festeggiamenti del cinquantesimo. Sì. Perché facciamo i festeggiamenti proprio dei 50 anni di storia. Guarda, il programma ancora ben definito, non lo abbiamo ancora ben definito, non penso che faremo un evento e basta, ma probabilmente cercheremo di utilizzare tutto l'anno dei festeggiamenti, cercando di creare vari eventi in giro per l'Italia e a seconda dei calendari. Per cui a breve sicuramente avrete informazioni. Io l'unica cosa che posso dirvi è che il primo appuntamento è appunto il 16 e il 17, che sono sabato e domenica di febbraio, a Novellara, e si festeggia praticamente la nascita di Augusto D'Aoglio. È una reunion con tutti i nostri amici che facciamo tutti gli anni, è un appuntamento fisso. Bravi. E tutti gli anni appunto, al di là dell'aspetto musicale, dove ci sono due concerti, ci sono, cioè, il sabato sera e la domenica pomeriggio, sì, ma c'è tutto il paese che gravita attorno un po' alla figura dei nomadi, la figura di Augusto. Per cui se uno vuole soddisfare curiosità, ma soprattutto vuole soddisfare curiosità artistiche, penso che sia il momento più opportuno, più opportuno. È un bersaglio centrato, veniva a Novellara. Quindi invito veramente tutti gli amici. Io mi rendo conto che non è dietro l'angolo, soprattutto perché deve partire da Lo so, ma vabbè, oggi le distanze, però merita veramente tanto, e tanti amici siciliani comunque l'hanno già fatto o comunque tendono a farlo. Massimo, io sono già amico di molti personaggi del mondo della musica, adesso non sto qui a nuclearli, ma tra questi c'è Adriano Pennino, che tu sicuramente conosci. E poi un altro mio grande amico è Giancarlo Golzi, il batterista di Mattia Bazzar. Sì. Con Giancarlo ci sentiamo ogni tanto, lo invito in trasmissione, eccetera. Ti voglio strappare una promessa. E questa non me la puoi dire, no, se non finisce a schifo, ma sono spiegato. No, mi permetto di scherzare perché vedo che sei simpatico. No, ma guarda, molto alla mano. Allora Massimo, due cose: nel momento nel quale fate un concerto qui in Sicilia, siccome già siete passati nei nostri studi che abbiamo rinnovato da qualche anno, siete stati qui presenti ospiti fisicamente a CRM Piredio, e quindi il mio editore avrebbe il piacere di riospitarvi. Va bene, ci sono le condizioni, ben volentieri. Noi le condizioni le creiamo, dottor Massimo, ma sono spiegato. Volevo poi dire che ci sia un concerto in zona, insomma. Ecco. Guarda che ti metto nel fianco la spina di Mirko, eh? No, dovete. Facciamo così: una volta che fate un concerto, magari con il gruppo di Mirko che vi apre, vi fa da apripista. Certo, ben volentieri. Proprio. Una volta che finite tutto, si va a cena insieme e poi veniamo a fare una bella diretta radiofonica di mezz'oretta, tre quarti d'ora, in modo tale che i fans che non vi raggiungono il vostro gruppo vi possono ascoltare in diretta qui da CRM Piredio. Un'altra cosa che ti voglio chiedere: se fuori onda Mirko può darmi il tuo numero di cellulare? Certo. Perché con Mirko abbiamo fatto un discorso molto semplice, nel senso che di fare un bel lavoro radiofonico, ne parliamo magari fuori onda di queste cose, poi con calma, Massimo. Va bene, perfetto. Io cosa posso dirti? Intanto grazie di cuore, perché per me è stata una grandissima emozione avere un membro di un complesso rock pop che ha 50 anni di storia, che ha scritto brani straordinariamente favolosi, che restano indelebili nella mente di molti italiani, anche alle nuove generazioni. Questo grazie a voi, grazie al vostro esito. Io vi ringrazio veramente, saluto tutti gli amici della Sicilia e spero veramente di vedervi presto. Massimo Vecchi, fateci sognare ancora, nomadi. Grazie. Un bacio, ciao, in bocca al lupo. E allora, era Massimo Vecchi con un brano che adesso io pregherei la regia di mandare in onda con Io Vagabondo, appunto, in onore di Massimo D'Aolio. E dai, di Massimo D'Aolio, in onore di D'Aolio, che è stata la voce ufficiale dei Nomadi. Pubblicità. Questo spot lo dedichiamo a chi ama il bello e lo sceglie ora che conviene di più. Brass da valore allo sconto, tutto dal 30 al 50%. Idee regalo, oggettistica, complementi d'arredo e tantissime sciarpe e cappelli. E mentre qualcuno potrebbe definirli sconti folli, noi diciamo che sono sconti geniali per chi ama lo stile e gli affari. Brass è in corso Ruggero 117 a Cefalù. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo, proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. E allora, abbiamo avuto in diretta il bassista di un grande gruppo, grande, 50 anni di storia, sembrano nati ieri, ma hanno fatto già tantissimi brani famosissimi. E poi una cosa molto bella che ha detto Massimo Vecchi, ha fatto dei complimenti artisticamente parlando ai ragazzi, a Mirko e al suo gruppo. Io dimentico sempre il nome del gruppo. Akram. Con la K. Akram, eccolo qua, è un nome un po'... Sembra greco però Akram. È arabo. Ecco, vedi, c'è qualche... Akram, e il significato significa, dicevamo... Generosità. Akram. Beh, nelle nostre zone abbiamo molte parole che vengono dall'arabo. Anche la borgata dove sei tu passato, Karsa, con la K, vuol dire predominante in arabo. Quindi gli Akram, eccolo qua. Allora, sentirete spesso parlare di questo gruppo, mi auguro che sia così, perché sono bravi, non perché lo dice Filippo Glorioso, ma perché lo ha detto un bassista che ha, insomma, una storia alle spalle e poi suona in un grande gruppo. Mirko, tu pensavi che cominciando a scherzare si potesse arrivare a livelli dove siete già arrivati? Io pensavo che sicuramente l'impegno prima o poi ti ripaga. Se l'impegno è, insomma, costante ed è vero, prima o poi ti ripaga. No, il fatto di conoscere Massimo, te lo dicevo poco fa, quando al lavoro mi arrivò la telefonata sua per la produzione artistica, mi mise a piangere, perché comunque... Beh, è una grande notizia, insomma, un grande gruppo che si mette a disposizione vostra nel seguirvi, nel prepararvi, nel mettervi in riga, chiamiamola così, esatto. Perché andavate magari a ordine sparso, bisognava compattare il gruppo. Compattare e andare dritto verso la meta, e giustamente dalle montagne in cui nasciamo. Montagne rocciose. Montagnissime. Giustamente è difficile creare dei contatti del genere, o comunque avere delle opportunità, come dicevi tu poco fa. È sicuramente una grande cosa, siamo stati molto ma molto fortunati. Beh, anche bravi, perché se non c'era la stoffa, insomma, che abbiamo dato. Cioè, fortunati nel senso di riuscire ad emergere un pochino più del normale. Mirko, c'è una parte della tua storia di vita, sì. Tu poco fa hai dato cenno alla formazione Crocetta, cioè tu annuivi, perché io dimenticavo che tu facevi parte del famoso CEFO, se non erro, sì, famosissimo, esatto. CEFO, sì. Beh, come vedete, amici ascoltatori, non tutti i mali vengono per nuocere. Certo, essere esodati, essere licenziati in tronco, sì, di un ente che è stato deleterio per moltissimi anni, è stato uno dei più grandi enti di formazione. Forse il più grande in assoluto addirittura. Ecco, allora ti faccio una domanda, esuliamo un attimo il discorso musicale, entriamo un po' nella fase invece del lavoro. Che prospettive avete adesso voi che siete stati licenziati, questi 350 licenziamenti che sono arrivati in tronco senza, peraltro, tu hai fatto anche i cosiddetti colloqui? I colloqui a Palermo con i commissari? No, assolutamente no, perché non mi è arrivata quella lettera che... Non ti è arrivata? No, non mi è arrivata, soltanto il licenziamento, il 31-12, e se arrivava la seconda lettera lui faceva il colloquio a Palermo, ah, e poi capito. Ti licenziavano uguale, comunque, nel quindi senso... ti hanno licenziato senza nemmeno ascoltarti. In tronco, io li ringrazio. Sì, e andiamo avanti. Grazie mille. Noi ringraziamo il direttore e andiamo avanti. Siamo il presidente. Sì, e andiamo avanti. Nino Perricone, grazie mille. Sì, insomma, e dico, ragazzi, c'è da stare poco allegri, i tempi non sono dei migliori, però nonostante questo il buon Mirko si è rimboccato le maniche. Ricordavamo fuori onda con Mirko, e lui già faceva parte di una precedente formazione che stava avendo già i suoi risultatini, anche se non a questi livelli. No, avevamo un produttore artistico che era Vincenzo Mancuso, che era produttore artistico e chitarrista di De Gregori. Ah, ecco. Ha suonato con Renato Zero, insomma, un personaggione. Cosa è successo? Perché vi siete scissi? Ma disaccordi tra voi, dissapori? Ma più che disaccordi, che all'interno dei gruppi li trovi sempre. Mm-hmm. Il discorso è che credo che si sia arrivato a un punto in cui qualcuno si è montato la testa e ha deciso fare strada da solo. Cosa che poi non è stato. Cosa che poi purtroppo non è stato, perché io sono felice, ho passato tanti anni all'interno di quella band, sono cresciuto con loro. So che non si fa così la musica. La musica è un'altra cosa, la musica non è arrivismo. Tu hai studiato musica, Mirko? Da insegnanti privati e da solo. Quindi come autodidatta, oltre a un supporto tecnico da parte degli esperti. Tecnico da parte di un insegnante di canto. da parte di un grandissimo bassista, perché io nasco bassista, che è Alessandro Vaccaro, che adesso è diventato uno dei jazzisti più forti a livello italiano. Ah, vedi? È gangetano. Medemma. Sì, ha una cattedra all'Università della Musica a Bergamo. Insomma, lui mi ha dato delle grandi dritte. Senti Mirko, io ho avuto sempre un sogno nel cassetto. È sceso Mogol, ha fatto degli stage che hanno dato dei risultati. Ma secondo te non sarebbe possibile nella nostra capitale, e non dico Roma, sto parlando di Palermo, capoluogo di regione, di aprire un'accademia musicale che scevra da quello che è poi invece il conservatorio, che è tutt'altra cosa, lì ti formano musicalmente, cioè tu prendi uno strumento, ti formano e via discorrendo. Invece per chi ama fare il cantante, ama fare il musicista pop, rock, blues, eccetera, non sei d'accordo nel dire che da noi, a parte le formazioni artistiche nel senso di teatro, di cinema, non ci sono laboratori in questo senso, quindi doppiaggio, quindi insegnare dizione a tutte quelle persone che poi magari vengono prese dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Basilicata, eccetera, vengono catapultati a Roma e hanno difficoltà perché non hanno una formazione. Certo. Saresti d'accordo ad aprire, magari di concerto con Adriano Pennino, con questi grandi musicisti che sono meridionali ma anche settentrionali, per carità, di creare un'accademia dove chi ama fare musica potrebbe anche avere la chance che avete avuto voi per pura combinazione, per fortuna, ma se sono veramente bravi di potersi inserire nel filone della musica leggera italiana grazie a un'accademia che ti forma almeno? Beh, penso che sia una cosa, cioè, insomma, sarebbe una cosa stupenda, solo che io quello che credo è che, a parte, dico, ci vorrebbero un bel po' di fondi per muovere tutto questo, se uno chiedesse qualcosa alla politica, no, ma se loro lasciassero qualcosa, dico, ecco, se loro lasciassero qualcosa in più per noi, nel senso, voi giovani, gente, che amate fare la musica, per gente che magari ha intenzione di, appunto, costruire situazioni del genere, credo, non so, si potrebbe anche fare, ma io la vedo buia e non ci posso fare niente. Io la vedo buia. Sei un pessimista. No, non sono un pessimista, solo che il discorso che da tantissimi anni c'è soltanto Catania che, diciamo, è il trampolino da di lancio. Qualcosa, sì. Beh, che poi è qualcosa, non è proprio tutto questo granché. C'è solo Catania in una terra così bella e così grande, e allora io penso che non abbiamo mai voluto fare qualcosa. Senti, di concreto. Ti spieghi come mai i partenopei napoletani sono attori nati, sono musicisti nati, grandi percussionisti, tipo Tony Esposito, Tullio De Piscopo, eccetera. E noi abbiamo parimenti a loro le stesse potenzialità. Voglio, però loro riescono forse perché più vicino al continente, più vicino a Roma. Io penso sia quello, una questione d'organizzazione, la locazione geografica. Sì, dici? Penso assolutamente. Sì, e penso pure l'approccio con l'arte stessa è diverso. Qui in Sicilia tu sai benissimo che l'arte comunque viene sottovalutata, perché poi la cosa più importante è la politica. E dice, tu che fai? Il musicista? Il musicista, ma che cosa dici? Ma fai il politico, che cosa guadagni, scemo? È così praticamente la storia. Senti, una domanda tecnica invece. Ci sono dei musicisti, anche siciliani voglio dire, che hanno fatto delle ricerche musicali anche verso il Maghreb, cioè ci spostiamo nei nostri vicini cugini tunisini, marocchini, eccetera, dove ogni tanto, sai, facendo zapping col telecomando, io sento delle canzoni che non mi dicono nulla, perché non conoscendo l'arabo è chiaro che non mi trasmettono sulle emozioni, però come musica, secondo me si amalgamerebbe bene con la nostra, con quella nostrana siciliana, intendo. Non credi che si possa fare un purpurì, collage? Sì, si può fare anche col pop, si può fare col rock, come per esempio noi abbiamo fatto nel nostro album. C'è un brano che ho scritto quando il testo, perché poi la musica l'abbiamo scritta insieme, ho scritto quando al ritorno da un viaggio in Tunisia. Ecco, sono stato al confine dell'Algeria e quindi comunque annussando certi tipi di odori, guardando un pochettino in giro la situazione, mi ha ispirato un testo che si intitola Differenze e che si trova nell'album che uscirà a fine febbraio. Senti, noi abbiamo una grande fortuna in Sicilia, tu parlavi dei colori, dei sapori del Maghreb, ma noi siamo molto vicini, pensa che da Porto Palo in provincia di Siracusa, subito dopo Noto, si vedono luci della Tunisia, quindi voglio dire, siamo a un passo per dirlo di schioppo da questa cultura sudista. Io la amo moltissimo, senza nulla togliere alla cultura nazionale nostra, ma io mi sento molto più vicino a loro che non per tradizione, per cultura, per sangue, ce l'abbiamo nel sangue, infatti. Senti, ma quando io attraverso la nostra terra, ed è cangiante la fascia tirenica, uliveti, vigneti, quindi è lussureggiante come fauna, Quando poi passiamo nell'entroterra, la parte di Enna Caltanissetta, troviamo dei quadri veri e propri di Van Gogh, cioè sì, questi terreni che sono marroni, verdi, a secondo quello che c'è seminato. Esatto. Tutto questo non ci aiuta ad essere estroversi e creativi, sia nell'ambito musicale ma artisticamente in generale? Tantissimo. Tantissimi i nostri paesaggi sono fondamentali, io penso, per l'espressione dell'arte in generale, che può essere un quadro, può essere un testo di una canzone o soltanto come dire, la stesura di una base musicale in generale, perché grazie a questi paesaggi e panorami sicuramente riusciamo ad esprimerci al meglio, meglio del grigio di una città, dico, penso. Ok Mirko, è stata una bella chiacchierata. In attesa che il regista scelga un'altra traccia, un altro brano a chiudere, per chiudere la trasmissione, la chiudiamo con un altro brano di questo gruppo Lacram. La chiudiamo con questo brano. Io davo i saluti ad Ital Finestre, produzione di porte d'interni su richiesta, anche su misura, finestre e persiane in PVC e in alluminio, quindi sono indelebili nel tempo, e poi le zanzariere che d'estate servono a non farci pungere le zanzare. Dove lo trovate? In via Roma c'è lo showroom, quindi ampia scelta anche di maniglie, e lo trovate a Cerda, esposizione via Roma 2H, Cerda, in provincia di Palermo. Vi do il telefono 091 892 7557. Un saluto anche ad Expert di Angelo Cascino, e lo trovate a Lascari in provincia di Palermo, passate Cefalù, perché ci sono degli sconti straordinari. Potete portare le vostre cose obsolete, i vostri elettrodomestici che sono andati ormai in fumo, tipo i frigoriferi, le lavastoviglie eccetera, non avete l'incombenza di andarle a buttare voi in discarica, ve li ritirano loro, in cambio prendete i nuovi elettrodomestici. Non ci sono soltanto quelli, c'è tutto per la casa, per l'edilizia, tutto quello che vi necessita, con sconti veramente straordinari. Dunque Expert lo trovate, vi dicevo, della famiglia Cascino, e Angelo che gestisce questo franchising, lo trovate in provincia di Palermo a Lascari a due passi. Poi invece, se vi trovate a Termini Merese in via Crisone, scusate, 14, telefono 091 81 15 455, confirme di tutto rispetto, Zucchetti, Finstral, Teuco, Gron, trovate dalle stufe, c'è uno showroom meraviglioso alle porte d'interni, alle cucine componibili, ai divani, ai sofà, tutto quello che vi serve, andatelo a trovare, perché uno showroom di tutto riguardo a Termini Imerese. Un saluto anche alla parafarmacia della dottoressa Guardì, perché lì trovate veramente tutto quello che necessita per la vostra bellezza corporea, soprattutto le donne ma anche gli uomini, prodotti che vanno alla cosmesi, dal viso al corpo, con delle firme straordinarie come per esempio la Roche, o prodotti per l'infanzia, o i presidi sanitari, che sono le stampelle, i girelli, quello che serve quando abbiamo un infortunio. Ricordate quindi la parafarmacia dottoressa Guardì, la trovate a Castelbuono in via Dante Alighieri 116. Chiudo con un ultimo sponsor, che è Easy Chic. Le Freak, diceva una famosa canzone. Easy Chic invece è uno showroom meraviglioso di Castelbuono, dove potete trovare stufa a pellet della Bartolini o della Lincar, con l'assistenza tecnica dovuta, poi vai a pellet, quindi di puro faggio o di abete bianco, le stufe di Gibro, andatele a vedere, funzionano con un liquido ma riscaldano in maniera paurosa, e poi ci sono dei lampadari con sconti fino al 40% soltanto da Easy Chic di Spadino Nunzio. Lo trovate a Castelbuono, il numero 333 4574 321. Dunque, siamo arrivati al capolinea, io ringrazio di vero cuore, grazie a voi, intanto Mirko, grazie Diagram, che sono intervenuti con due brani, adesso chiudiamo con l'ultimo brano, e poi un grazie di cuore, con l'ausilio, con l'auspicio, più che ausilio, con l'auspicio, che i due gruppi, le Acram e i Nomadi, li possiamo avere qui in studio quest'estate. Speriamo presto. Io volevo ricordare alla gente, prego, www.acramband.com, che è il nostro sito internet, quindi per qualsiasi cosa ci possono seguire lì. Io invece vedo l'appuntamento verrà differita sempre domenica alle 8:30, l'appuntamento invece in diretta giovedì prossimo, sempre stessa ora, stesso programma. Chi vuole seguirci sui 101.4 in diretta radiofonica, oppure su www.crmperiodio.it, poi c'è anche podcast, quindi per le repliche andate lì, sentirete l'intervista di oggi con questi brani straordinari, prima dei Nomadi e poi, perché no, di un grande gruppo che sta crescendo sempre in maniera esponenziale, gli Acram. Signori, un bacio a tutti, buona domenica, ciao ciao a tutti. Ma cosa, sulla tua pelle, facendoti gridare in silenzio, ferirti e curarti per imprimere il segno, curarti e rapirti mia e non del mondo. Il calore del tuo corpo è insaziabile, la voglia che a pedì e non ci pensiamo, non dire basta, non è ora, truccidiamo i nostri sensi, uccidiamoci ora. Oh no!